Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. La sera Lord de Winter si presentò al momento della cena. Signore, gli disse Milady, la vostra presenza è forse un accessorio indispensabile della mia reclusione, e non potreste risparmiarmi la tortura supplementare che le vostre visite mi procurano? Ma come, cara cognata, rispose De Winter, non mi avete appassionatamente dichiarato con quella bella bocca, oggi così crudele verso di me, che eravate venuta in Inghilterra al solo scopo di godere della mia compagnia, godimento di cui diceste e sentivate così acuta la privazione da rischiare per esso il mal di mare, tempesta, prigionia. Ebbene, eccomi qua. Potete essere soddisfatta. D'altronde, questa volta la mia visita ha un motivo. Milady rabbrividì. Credette che Felton avesse parlato. Mai in vita sua quella donna che aveva provato tante potenti e opposte emozioni aveva sentito il cuore batterle con tanta violenza. Era seduta. Lord de Winter prese una poltrona, la portò accanto a lei, le si sedette vicino, poi, traendo di tasca un foglio che spiegò adagio, disse, ecco, volevo mostrarvi questa specie di passaporto che io stesso ho compilato e che ormai vi servirà da numero d'ordine nella vita che ho deciso di lasciarvi vivere. Poi, riportando gli occhi da Milady al foglio, lesse, ordine di condurre a, in nome e in bianco, si interruppe De Winter, se avete qualche preferenza me l'indicherete, e purché sia a un migliaio di leghe da Londra, la vostra richiesta verrà accolta. Dunque ricomincio. Ordine di condurre a la nominata Charlotte Baxon, condannata al marchio dalla giustizia del Regno di Francia, ma liberata dopo la pena. Ella rimarrà in tale residenza senza mai allontanarsene più di 3 leghe. Qualora tentasse di evadere, le verrà inflitta la pena di morte. Quest'ordine non mi riguarda, replicò freddamente Milady, perché vi è scritto un nome diverso dal mio. Un nome? Forse che ne avete uno? Ho quello di vostro fratello. Vi ingannate. Mio fratello è soltanto il vostro secondo marito e il primo vive ancora. Ditemene il nome e lo metterò al posto del nome di Charlotte Baxon. No? Non volete? Tacete? Sta bene. Sarete registrata sotto il nome di Charlotte Baxon. Milady rimase silenziosa. Questa volta però non per affettazione, ma per terrore. Credette che l'ordine fosse già pronto per l'esecuzione. Pensò che Lord de Winter avesse anticipato la partenza. Credette di essere condannata a partire la sera stessa. Per un attimo tutto fu quindi perduto nella sua mente quando ad un tratto si avvide che l'ordine non portava alcuna firma. La gioia che provò a tale scoperta fu così grande che non riuscì a nasconderla. «Sì, sì», disse Lord de Winter, notando ciò che ella provava. «Sì, cercate la firma e vi dite non tutto è perduto, perché questo ordine non è firmato. Me lo mostrano per spaventarmi, ecco tutto, sbagliate. Domani l'ordine sarà inviato a Lord Buckingham. Dopodomani tornerà firmato di suo pugno e con il suo sigillo e 24 ore dopo, ve lo garantisco io stesso, diventerà esecutivo. Addio, signora. Ecco tutto ciò che avevo da dirvi. E io vi risponderò, signore, che questo abuso di potere, questo esilio sotto falso nome, sono un'infamia. Preferite essere impiccata con il vostro vero nome, milady. Lo sapete, le leggi inglesi sono inesorabili sull'inganno in fatto di matrimonio. Spiegatevi francamente, benché il mio nome, o meglio, il nome di mio fratello, si trovi implicato in tutto ciò, rischierò lo scandalo di un pubblico processo pur di avere la certezza di essermi così sbarazzato di voi. Milady non rispose, ma diventò pallida come un cadavere. L'indomani, quando Felton entrò da Milady, la trovò in piedi su una poltrona che teneva tra le mani una corda tessuta con alcuni fazzoletti di batista lacerati in tante strisce intrecciate tra loro e annodate l'una all'altra. Al rumore della porta che si apriva, Milady saltò leggermente a terra dalla poltrona, tentando di celare dietro la schiena la corda improvvisata che teneva in mano. Il giovane era più pallido del solito. Gli occhi arrossati dall'insonnia rivelavano che aveva trascorso una notte febbrile. Tuttavia, la sua fronte era armata di una serenità più austera che mai. Lentamente si avvicinò a Milady, che si era seduta, e prendendo un capo della treccia omicida che per disattenzione o forse intenzionalmente ella aveva lasciato in vista, chiese freddamente: «Che è questo, signora?» «Questo? Nulla», rispose Milady sorridendo con quell'espressione dolorosa che così bene sapeva dare al suo sorriso. «La noia è la nemica mortale dei prigionieri. Mi annoiavo e mi sono divertita a intrecciare questa corda». Felton portò lo sguardo al punto del muro davanti al quale aveva trovato Milady ritta sulla poltrona in cui adesso era seduta, e sopra al suo capo scorse un gancio dorato confitto nel muro che serviva per appendervi indumenti o armi. Trasalì, e la prigioniera vide quel trasalire. Benché tenesse gli occhi bassi, nulla le sfuggiva. Felton chiese: «E cosa facevate, ritta sulla poltrona?» «Che ve ne importa?» rispose Milady. «Ma», riprese Felton, «desidero saperlo». «Non interrogatemi», disse Milady. «Sapete pure che a noi altri, veri cristiani, è proibito mentire». «Ebbene», disse Felton, «ve lo dirò io quello che facevate, o meglio ciò che volevate fare. Stavate per tradurre in atto il proposito fatale che accarezzate nella vostra mente. Pensateci, signora, se il nostro Dio proibisce la menzogna, ben più severamente proibisce il suicidio. Quando Dio vede una delle sue creature perseguitata ingiustamente, posta fra il suicidio e il disonore, credetemi, signore», rispose Milady in tono profondamente convinto, «Dio le perdona il suicidio, perché in tal caso il suicidio è il martirio. Voi dite troppo, o troppo poco. Parlate, signore, in nome del cielo, spiegatevi. Che io vi racconti le mie sventure, perché le trattiate da favole? Che vi dica i miei progetti, perché li andiate a denunciare al mio persecutore? No, signore. D'altronde, che vi importa della vita o della morte di una infelice condannata? Voi non rispondete che del mio corpo, né vero? E purché mostriate un cadavere che sia riconosciuto per mio, non vi chiederanno di più. E forse anche avrete una ricompensa doppia». «Io, signora, io!» esclamò Felton. «Supporre che accetterei il prezzo della vostra vita? Oh, voi non pensate quello che dite!» «Lasciatemi fare, Felton, lasciatemi fare», disse Milady esaltandosi. «Ogni soldato deve essere ambizioso, non è vero? Voi siete luogotenente Ebbene, seguirete il mio feretro con il grado di capitano. Ma che vi ho fatto io? Disse Felton scosso. Perché mi addossiate una simile responsabilità davanti agli uomini e davanti a Dio? Tra qualche giorno, signora, sarete lontana di qui. La vostra vita non sarà più sotto la mia tutela e, soggiunse con un sospiro, allora ne farete ciò che vorrete. Per quanto impassibile fosse o fingesse di esserlo, Felton non poté resistere al segreto influsso che già si era impadronito di lui. Vedere quella donna così bella, bianca come la più candida delle visioni. Vederla ora piangente e ora minacciosa. Subire al tempo stesso l'attrazione del dolore e della bellezza. Era troppo per un visionario. Era troppo per un cervello minato dai sogni ardenti della fede estatica. Era troppo per un cuore corroso dal bruciante amore per il cielo, come dall'odio divorante per gli uomini. Milady vide il turbamento, per intuizione sentiva la fiamma delle passioni opposte che ardevano con il sangue nelle vene del giovane fanatico, e simile a un abile generale che, vedendo il nemico pronto a indietreggiare, muove su di lui lanciando un grido di vittoria, ella si alzò, bella come una sacerdotessa antica, ispirata come una vergine cristiana e con il braccio teso, il collo scoperto, i capelli sciolti, trattenendo con una mano la veste pudicamente raccolta sul petto, lo sguardo acceso da quel fuoco che aveva già portato il disordine nei sensi del giovane puritano, mosse verso di lui dicendo: «Non mi hai riconosciuta, Felton. Non sono né un angelo né un demonio. Sono una figlia della terra. Sono una sorella della tua fede. Ecco tutto». «Sì, sì», disse Felton. «Avevo ancora dei dubbi, ma adesso credo». «Credi? Eppure mi consegni a quello che riempie e insozza il mondo con le sue eresie e con le sue dissolutezze, a quell'infame sardanapalo che i ciechi chiamano il duca di Buckingham e i credenti chiamano l'anticristo. Io consegnarvi a Buckingham? Io? Che dite mai?» «Hanno occhi», esclamò Milady, «e non vedranno. Hanno orecchi e non udranno». «Sì, sì», disse Felton, passandosi la mano sulla fronte madida di sudore, come per strapparne l'ultimo dubbio. «Sì, riconosco la voce che mi parla nei miei sogni, sì, riconosco le fattezze dell'angelo che ogni notte mi appare, gridando alla mia anima, incapace di sonno: colpisci, salva l'Inghilterra, salvati! Perché tu morrai senza avere disarmato Dio. Parlate, parlate», esclamò Felton. «Adesso posso capirvi». Un lampo di gioia terribile, ma rapido come il pensiero, sfolgorò negli occhi di Milady. In quel momento si udì il passo di Lord Winter. Ma questa volta il severo cognato di Milady non si limitò a passare davanti alla porta e ad allontanarsi come aveva fatto la sera prima, ma si fermò e scambiò due parole con la sentinella. Poi la porta si aprì ed egli apparve. Nel frattempo Felton si era scostato in fretta e all'apparire di De Winter si trovava a qualche passo dalla prigioniera. Il barone entrò lentamente e volse lo sguardo scrutatore dall'una all'altro. «Siete qui da un bel po', John», disse. «Questa donna vi ha raccontato i suoi delitti? Allora capisco perché il colloquio è durato così a lungo». Felton trasalì, e Milady capì che era perduta se non veniva in aiuto all'imbarazzato puritano. «Ah, Voi temete che la vostra prigioniera vi sfugga, disse. Ebbene, chiedete al vostro degno carceriere quale grazia imploravo da lui proprio ora. Il barone domandò sospettoso: chiedevate una grazia? Sì, milord, rispose il giovane confuso. E quale grazia? Sentiamo, riprese Lord Winter. Un coltello che essa mi restituirà attraverso lo sportello un attimo dopo averlo ricevuto, rispose Felton. C'è dunque qualcuno nascosto qui dentro che questa graziosa signora voglia sgozzare? Continuò Lord Winter con voce beffarda e sprezzante. Ci sono io, rispose Milady. Vi ho fatto scegliere fra l'America e Tyburn, ribatté Lord Winter. Scegliete Tyburn, Milady. La corda, credete a me, è più sicura del coltello. Felton impallidì e avanzò d'un passo, pensando che nel momento in cui era entrato, Milady stringeva una corda. Avete ragione, disse questa. Ci avevo già pensato, poi aggiunse con voce sorda. Ci penserò ancora. Felton si sentì correre un brivido fin nelle midolla delle ossa. Probabilmente Lord Winter scorse quel fremito. Diffida, John, disse. John, amico mio, ho avuto fiducia in te. Sta in guardia. Ti ho avvertito. D'altronde fatti animo, ragazzo. Fra 3 giorni ci saremo liberati di questa creatura e, dove la mando, non nuocerà più ad alcuno. Lo sentite? Esclamò Milady con impeto. E il barone credette che si rivolgesse al cielo, mentre Felton capì che si rivolgeva a lui. Il giovane chinò la testa meditabondo. Il barone prese l'ufficiale sotto braccio, tenendo la testa girata per non perdere di vista Milady finché non fu uscito. «Su via!» disse la prigioniera quando la porta si fu richiusa. «Non sono ancora così avanti quanto pensavo. De Winter ha mutato l'imbecillità abituale in una accortezza insospettata. Cos'è mai il desiderio della vendetta? E come tale desiderio forma l'uomo. Quanto a Felton ondeggia. Ah, non è un uomo della tempra di quel dannato D'Artagnan. Un puritano non adora che le vergini e le adora giungendo le mani. Un moschettiere ama le donne giungendo le braccia. Tuttavia Milady attese impaziente, perché era quasi certa che la giornata non sarebbe trascorsa senza che Felton si facesse rivedere. Infine, un'ora dopo la scena che abbiamo raccontata, sentì bisbigliare alla porta. Poi questa si aprì quasi subito ed ella riconobbe Felton. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it